piccolo nella pardi, si alza presto ogni mattina, e che in pensione madame, che non sa la disciplina. Meglio morto a Madire che in qualche casa di riposo. Meglio morto che vecchiore in modo lento e necaroso. Si rade con Pontiglio, bacia la foto della moglie Amalia, poi scende al bar giù da Tiglio. Cornetto cappuccino e secolo d'Italia. Per strada il colonnello tiene un passo marziale, e nonostante gli anni un portamento esemplare. Guarda dall'alto in basso alle nuove generazioni, schiave del compromesso, della TV e dell'inflazione. Ricorda in un sospiro quando i suoi 16 anni molò a quell'epico delirio che altri chiama Repubblica. Salò. Di fronte al campo nomade affretta l'andatura, ben sinovilmente ma per ansia, per paura, perché colto da disgusto per questa sua città, col suo passo d'Augusto Raimano zingari mulla. E Dio, patria, famiglia, dice, hanno ancora un valore, per questo dice simpatizza coi camerati di fiamma tricolore. Mentre saluta l'ha puntato mezzo allocchito alla fermata del 12, rivede il figlio Italo imparata, fiero ed impettito come nella foto che ha appeso in stanza dal giorno che si è giustiziato, dicono, pulendo l'arma d'ordinanza. E dell'altro figlio Romano non sa dire poi granché, sa che faceva il pittore a Milano ma non lo vede, non lo vede dal Natale dell'83. Mentre con un balzo anche il Cheffelino raggiunge quasi senza sforzo del bus il predellino, gli torna nuovamente le lunghe pause di silenzio ed una maglia via più assente nei desolati dopo pranzo, consumati come in attesa di una telefonata a distanza d'offesa nel giro di un'ostilità malcelata. Ma le donne, lo si sa, sospira il colonnello e osserva con voluttà una giunonica gonnella che lo guarda di sottecchi e nasconde un risolino. Non pare certo invecchi, si dice il figlio mascolino, ma negli occhi della ragazza coglie come un'impressione di improvvisa tenerezza, mista derisione. E per una volta, insolitamente, il colonnello tende al rosso perché s'accorge con sgomento che da imbecille si è pisciato addosso. Accetta nera, bella bissina, aspetta e spera che già l'ora si avvicina, quando saremo vicino a te, noi ti daremo il nostro dulce. E il nostro re. Il nostro re.